Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni i capi dissero al re: si metta a morte Geremia, appunto perché gli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. Il re Sedacia rispose: ecco, egli è nelle nostre mani, il re infatti non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua, ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed Melech uscì dalla reggia e disse al re: o re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine ad Ebed Melech l'Etiope: prendi con te 3 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Salmo responsoriale dal Salmo 39. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido. Signore, vieni presto in mio aiuto. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ho stabilito i miei piedi sulla roccia. Ho reso sicuri i miei passi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ma io sono povero e bisognoso. Di me ha cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Mio Dio, non tardare. Signore, vieni presto in mio aiuto. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera.